La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24 e grazie all'ascolto in diretta, siamo qui dagli studi di Milano e questo giovedì 24 di marzo sono le 16.32, prime quasi 33, quindi un minuto di ritardo e restiamo ancora oggi sul tema delle polemiche, degli approfondimenti post attentati a Bruxelles e in particolare tentiamo di capire una questione, ve lo dico per chi volesse intervenire, se volete all'800240024 o al 3492386666 per gli sms, la questione che tentiamo di approfondire è, venendo all'Italia e alla cooperazione con gli altri paesi europei in cui si annida il fenomeno dei sostenitori al jihadismo, i numeri, come abbiamo capito in questi giorni ancora una volta, molto preoccupanti, con concentrazioni geografiche, l'abbiamo detto ieri, in cui le forze dell'ordine di sicurezza in grandi paesi europei esitano a intervenire a tappeto, come avvenne nel nostro paese negli anni del terrorismo, esitano perché temono le reazioni, perché temono i fraintendimenti politici, però per tutte queste ragioni nel nostro paese in concreto come funziona, come è strutturato il livello di cooperazione e condivisione delle informazioni per dati, nomi sensibili, progressi di indagini o anche solo sospetti e segnalazioni tra forze della sicurezza e apparati giudiziari degli altri paesi dell'Unione Europea rispetto all'Italia? Ecco, oggi sulla stampa di Torino è intervenuto un magistrato che è nostro ospite esattamente intervenendo su questi temi e anche proponendo, aprendo una riflessione, sulla necessità di cambiare alcune delle norme che ci sono oggi. Allora, è Nicola Piacente che è il procuratore capo di Roma ed è membro del Codexter, cioè il comitato permanente di esperti sul terrorismo presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo, e che ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Dottor Piacente, grazie. Buonasera dottor Giannino, la ringrazio per avermi promosso procuratore della Repubblica di Roma. Non di Roma, Como, infatti. Allora ho capito male io, comunque buon Roma. Allora, prima di entrare nelle eventuali modifiche alle norme, possiamo spiegare ai nostri ascoltatori che si chiedono, ma siamo al sicuro, in concreto, quando una procura della Repubblica italiana apre un fascicolo su vicende collegate a sospetti di affiliazione o sostegno di jihadismo in Italia, qualunque sia la fonte di provenienza della notizia di reato, la polizia postale, su internet, cose di questo genere qua, in questo caso il magistrato italiano su che cosa riservatamente può contare di apparati di condivisione di informazione a livello europeo? Sì, una domanda estremamente interessante. Allora, abbiamo un principio basilare nell'ambito dell'Unione Europea che è quello del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Al momento questo principio del mutuo riconoscimento ha portato all'emanazione di una serie di direttive, l'ultima è quella del 2014 per quanto riguarda l'ordine d'indagine europeo. Il che significa che gli Stati dell'Unione Europea possono disporre al proprio interno degli strumenti di indagine particolarmente penetranti, come per esempio le intercettazioni telefoniche, le intercettazioni ambientali, quelle telematiche, e possono, laddove questa attività debba essere svolta in un altro paese dell'Unione Europea, chiedere, senza la rogatoria, ma attraverso uno strumento immediatamente molto più efficace, molto più tempestivo, quale quello del riconoscimento del provvedimento di intercettazione, allo Stato dove quel provvedimento deve essere eseguito, appunto che quel provvedimento venga eseguito immediatamente. È una direttiva che però non è stata ancora implementata da parte del nostro Paese, però è del 2014, quindi verosimilmente confido, voglio dire, in una particolare sensibilità, soprattutto in questo momento. Anche perché governo. Appunto stiamo parlando esattamente con quello che è avvenuto a novembre 2015 a Parigi e adesso, se non è questa un'emergenza. Ecco. Tenga conto che proprio nell'ambito di questa della particolare sensibilità che attualmente le autorità governative stanno dimostrando verso i fenomeni globali di criminalità organizzata e di terrorismo, e di qualche giorno fa, del 10 marzo, l'approvazione di un decreto legislativo importantissimo che dà attuazione in Italia, per quanto riguarda una direttiva a livello di Unione Europea, circa la formazione delle squadre investigative comuni. Che cosa significa? Che nell'ambito delle indagini transnazionali, molto spesso quelle di terrorismo sono indagini certo. transnazionali, si possono creare da parte degli stati, delle procure, dei parquet interessati, delle squadre investigative comuni, formate quindi da investigatori appartenenti ai vari stati interessati, che possono svolgere attività di indagine senza rogatoria nei vari stati interessati. E quindi, perché queste squadre possano essere poste in essere? Poiché se si verificano fatti, i tempi devono essere di particolare emergenza. A quel punto, quali autorizzazioni sono necessarie? Cioè, è il capo della procura che può disporle automaticamente, oppure bisogna passare attraverso il filtro di valutazione e autorizzazioni governative? Come funziona? No, dunque, il filtro governativo non è contemplato. Sì. Sono accordi diretti tra le autorità giudiziarie. Quindi saranno accordi diretti che, per quanto riguarda l'Italia, potranno essere adottati dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sì. dalla Procura Distrettuale Interessata, e per quanto riguarda gli altri stati europei, che in maggior parte hanno delle autorità centrali che indagano su fenomeni di terrorismo, penso al Belgio, alla Francia, alla con Germania. Le autorità giudiziarie equivalenti della nostra esatto. direzione nazionale distrettuale esatto. antimafia e antiterrorismo. Infatti, quindi con accordi diretti, quindi con un abbrivio di tempi notevole. Come già, mi corregga se sbaglio, tutte le volte che mi corregga se sbaglio, ma come già capita in materia, da anni, in materia di indagini di criminalità internazionale e mafiosa, che spiega alcune presenze su operazioni internazionali col coinvolgimento diretto dei magistrati, no? Esatto, tenga conto che però questo decreto legislativo dà un'attuazione globale non soltanto per quanto riguarda i casi di terrorismo, ma per quanto riguarda tutti i reati gravi che a livello di Unione Europea sono contemplati nella decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo. Sì. Cioè tutte le volte in cui noi abbiamo un reato per il quale è consentito il mandato di arresto europeo, che si basa sempre sul... Può scattare una cooperazione di questo esatto, tipo? Può scattare la squadra investigativa comune. Gli altri stati già lo fanno da diversi anni. Noi eravamo un po' indietro, noi potevamo costituire queste squadre investigative comuni con la Svizzera sulla base di un rapporto bilaterale di cooperazione con gli Stati Uniti. Ora lo possiamo fare a livello di Unione Europea. Oh, rispetto a questo, chi dice serve una vera e propria procura europea per i reati di questa gravità? Nella sua operatività quotidiana e per la responsabilità che svolge nel nostro ordinamento, che cosa ritiene? Che sia una fuga in avanti della politica rispetto alla quale sia tutto sommato anche comprensibile che gli ordinamenti abbiano delle remore, oppure una necessità? Allora, nel mondo ideale è chiaro, sarebbe la forma come dire, completa di armonizzazione dei sistemi giudiziari dell'Unione Europea. Parliamo in termini pratici. Si parla di procura europea per quanto riguarda il contrasto ai reati che danneggiano gli interessi finanziari dell'Unione Europea, cioè con riferimento ai reati in materia di frodi comunitarie, da anni, voglio dire, da circa un decennio. E ancora, come dire, questo organismo unitario non ha visto la luce. Allora, in questo momento si e in quel caso parleremmo di fattispecie di reato che cadono nella competenza e negli interessi che ledono sono proprio solo quelli comunitari. Esatto, mentre in questo caso noi parleremo di reati particolarmente gravi per cui è previsto sì il mandato all'estero europeo, ma che nei diversi codici ovviamente penali sono puniti in maniera diversa. Per quanto devo dire, una parziale e significativa armonizzazione di alcuni reati fondamentali c'è a livello sia di Unione Europea sia di Consiglio d'Europa. Il problema è un altro, e sono i tempi di attuazione e sono i tempi, come dire, nell'ambito dei quali ciascuno Stato sarà disponibile a cedere una parte di sì. propria sovranità giurisdizionale. Perché adesso, al di là, voglio dire, l'Italia non è stata coinvolta in queste vicende negli ultimi 4 mesi e mezzo, però che ci sia un problema di attrito di competenze e di non proprio elevatissima cooperazione, almeno a giudicare dall'esterno, tra le competenze francesi e quelle belghe, che purtroppo fa a pugni col fatto che la base logistica, i gruppi di fuoco, i sostenitori e le cose erano a cavallo dei due confini, come tutte le operazioni sono avvenute a cavallo di Francia, beh, questo fatto è diventato evidente. Che comunque la cooperazione attuale non basti, mi pare che da novembre in poi, dal Bataclan fino ai fatti dell'aeroporto e della metropolitana di Bruxelles, risulti macro evidente, non crede? Guardi, allora non me la sento di effettuare delle conclusioni sì. su quella che è stata l'efficienza dello scambio di informazioni tra autorità francesi e autorità belga. Io mi limito però ecco, le dico solo che quanto come magistrato, il fatto che noi ci siamo trovati sui giornali a dover, per il nostro mestiere, da una parte dopo l'arresto di Salah Abdeslam, registrare e diffondere dovunque, è avvenuto in tutto il mondo, ma anche nel nostro paese, è il fatto che le autorità belghe facevano trapelare ciò che Salah stava dicendo loro, ed è avvenuto poche ore dopo il loro arresto. Dall'altra parte, pochissime ore dopo, l'indomani mattina, le reazioni della magistratura e delle autorità francesi a questo e la piccatissima richiesta che si procedesse immediatamente alla consegna all'ordinamento francese. Ecco, questi fatti dal punto di vista giornalistico erano dei segnali evidenti che c'era un atteggiamento non proprio di serena cooperazione. Mi scusi, ecco. Qui rientriamo sempre purtroppo nella problematica relativa alla disponibilità di ciascuno Stato e di ciascuna autorità che lo rappresenta, nel caso di specie, a cedere una parte di propria giurisdizione o di propria sovranità. Certo. Tenga conto che il presunto terrorista in questione è indagabile e quindi può essere giudicato sia in Francia per quanto riguarda gli attentati, sia in Belgio per quanto riguarda una partecipazione alle associazioni di terrorismo. Certo. Anche qui gli strumenti investigativi e processuali ci sono a livello europeo, tutto sta a volerli attuare e questo purtroppo dipende anche dalle autorità giudiziarie che volta per volta sono coinvolte. Quindi nel caso concreto già di Salah Abdeslam, lei dice si può trovare immediatamente un accordo perché ci sono procedure comuni. Certo, ci sono delle decisioni quadro a livello europeo, a livello di applicazione del mandato del resto europeo, che prevedono delle procedure specifiche per la soluzione di conflitti positivi e negativi di competenza, cioè quando più autorità giudiziarie di più paesi rivendicano la titolarità di un'indagine oppure rifiutano, ritengono di non essere competenti a svolgere una determinata indagine. Abbiamo strumenti normativi, abbiamo un organismo di coordinamento che si chiama Eurojust, che ha sede all'AIA e che è deputato appunto a risolvere questo tipo di problemi. Esattamente. Allora, ci fermiamo qui perché abbiamo un minuto di informazioni sul traffico e ritorno in diretta tra un minuto. Cerchiamo di spiegare invece che cosa nella sua esperienza, perché è di questo che ha fatto poi esplicito riferimento nelle sue uscite giornalistiche, ciò che sta avvenendo questa settimana, in questi mesi, dovrebbe indurci a riflettere, perché c'è qualcosa anche nelle norme italiane che si può e si deve cambiare. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, stiamo parlando con un magistrato che è procuratore della Repubblica al Tribunale di Como ed è componente del Comitato di Esperti sul Terrorismo a livello di Consiglio d'Europa. Abbiamo visto nella prima parte della puntata, alla luce di quello che abbiamo visto in questi giorni dopo gli attentati a Bruxelles, che strumenti ci sono già automatici tra ordinamenti giudiziari senza passare per il filtro della valutazione politica a cui poter ricorrere in caso di reati molto gravi come quelli per cui è già previsto il mandato di arresto europeo, e invece i problemi che possono insorgere quando sono i singoli magistrati, lo abbiamo visto in particolare in questi giorni tra Parigi e Bruxelles, hanno qualche esitazione nel concordare immediatamente quando ciuffano qualcuno le procedure migliori congiunte per non far trapelare problemi o addirittura versioni di quello che sta dicendo a una autorità contro l'altra, perché nel caso di Salah Abdeslam avete letto tutti che la richiesta era quella: non mandatemi a Parigi e parlo di più piuttosto che se invece mi mandate. Però detto tutto questo, c'è poi anche un'altra questione. Io devo dare una risposta intanto ad alcuni ascoltatori che dicono ma una componente dell'insicurezza è anche quella della riservatezza che sembra emergere da alcuni interventi delle autorità giudiziarie europee in questi giorni, perché in particolare c'è un ascoltatore che dice: come faccio a sentirmi più sicuro se un inglese viene fermato dalla polizia nel suo paese per aver chiesto ai musulmani cosa ne pensassero dei fatti di Bruxelles, avesse messo su Twitter tutto ciò e viene considerato una persona che crea rischi di improprie reazioni lui e viene fermato. E un altro fa riferimento al fatto che una professoressa belga qui è giunta un'intimazione della polizia di non dar voce e non dare pubblicità alla versione che aveva iniziato a diffondere sui social, mettendo nome e cognome come insegnante, del fatto che i suoi studenti islamici in realtà avevano festeggiato le prime notizie delle bombe che erano esplose all'aeroporto. E che volete che vi dica, cari ascoltatori? Qui è una maniera a intendere di concepire da parte delle autorità pubbliche come non alimentare, nelle ore tragiche in cui gli eventi sono ancora in corso, in proprie reazioni. Naturalmente dicono molto della paura di cui noi viviamo verso la nostra stessa cultura, secondo me, ma questa è una mia opinione. Torniamo con il procuratore della Repubblica di Como, Nicola Piacente, a vedere anche un'altra cosa. Cosa secondo lei è forse opportuno, se non necessario, cambiare delle norme che abbiamo in Italia, su come in Italia abbiamo le fattispecie penali, le pene e gli strumenti a vostra disposizione per tutta l'intera serie di fattispecie che possono essere riconducibili poi al fenomeno del sostegno esterno o interno in organizzazioni a ISIS e al terrorismo jihadista? Allora, dunque, dottor Giannino, devo dire, pur essendo un magistrato indipendente, quindi devo dire assolutamente svincolato da logiche ministeriali, governative, devo riportare un parere estremamente positivo che una commissione delle Nazioni Unite che analizza e mette a confronto i sistemi legislativi di vari paesi delle Nazioni Unite in materia di terrorismo, quindi un rapporto estremamente positivo che ha redatto proprio sul conto dell'Italia. L'Italia viene considerata un paese all'avanguardia per quanto riguarda la sua normativa antiterrorismo, soprattutto dopo che immediatamente dopo i fatti degli Charlie Hebdo, e quindi stiamo parlando del febbraio 2015, certo, sono state emanate nuove norme che in qualche maniera criminalizzano quelle che sono delle condotte che possono essere ritenute preparatorie rispetto alla perpetrazione degli atti di terrorismo. Sì. L'Italia dal febbraio del 2015 ha aggiunto nuove norme che per esempio criminalizzano il farsi reclutare presso un'organizzazione terroristica o meglio ancora per compiere un attentato terroristico indipendentemente dal fatto che l'attentato venga poi effettivamente compiuto, quindi basta la volontà, l'intento specifico di compiere l'attività terroristica, che criminalizzano per esempio l'addestramento passivo anche tramite internet, prevedendo tra l'altro delle specifiche aggravanti laddove tutto questo arrivi tramite internet, venga effettuato tramite internet, sempre che vi sia la finalità di terrorismo, ben inteso, che criminalizza il finanziamento dei viaggi con finalità di terrorismo. Quindi lo stato attuale è quello di una legislazione all'avanguardia. Quindi questo è il potenziamento che è venuto anche nel nostro ordinamento su tutto quello che riguarda il settore della, diciamo così, tentativi di arruolamento o arruolamento o di incanalamento di risorse verso ISIS le forme jihadiste. Esatto, c'erano già delle norme che punivano la partecipazione alla società ma verso chi torna, che in Europa è diventato il sistema attraverso cui si alimentano i gruppi di fuoco come quello del Belgio. Siamo a posto invece? Allora, ecco, è qui che è esattamente il problema. Allora, a livello nazionale e internazionale, obiettivamente, questa è verosimilmente una lacuna da colmare. Da colmare. Nel senso che, allora, bisogna intanto essere molto attenti nell'interpretazione del ritorno. Il ritorno può essere indice, magari, sì, di una volontà di compiere in Europa, nel paese di provenienza, un attentato terroristico. Talora da alcune testimonianze giornalistiche sembrano anche persone che hanno capito davvero che cosa sia ISIS e hanno cambiato idea di fronte al fatto che gli è stato chiesto di tagliare delle teste. Esatto, dopodiché esattamente il ritorno può essere anche sintomatico di una volontà di dissociazione. Naturalmente la dissimulazione è sempre un rischio, però. Certamente la dissimulazione è sicuramente un rischio. Allora, questa compressione della libertà di movimento, sia che si tratti di partire verso scenari problematici, sia che si tratti di rientrare lasciare problematici richiede quindi una prova fondamentale, che ci sia la finalità di terrorismo, che deve essere presente nel viaggio, nell'addestramento, nel reclutamento. Quindi ma anche nel ritorno in Europa. Certo, certo, sì, perché ora dico la compressione della libertà di movimento, quindi la criminalizzazione del viaggio di ritorno. È una lacuna che noi abbiamo a livello nazionale e internazionale. Ci sono delle resistenze da questo punto di vista, proprio per, come dire, la molteplicità delle interpretazioni che si possono dare al rientro nei paesi di origine. Però è un aspetto che va preso in considerazione. Mi permette di aggiungere una considerazione che è tragica, però trae spunto dei numeri. Francia e Belgio sono i paesi al momento maggiormente colpiti dagli attentati terroristici, perché sono i paesi in Europa che in termini numerici assoluti, la Francia, in termini percentuali, il Belgio, per quanto riguarda la popolazione, sono caratterizzati dal maggior numero di foreign fighters. Esattamente, sì, esattamente così, e quindi come si vede è per questo che bisogna aggiornarsi esattamente anche dal punto di vista delle fattispecie, della punibilità e dei criteri giudiziari di potenziamento degli strumenti esattamente su questo fenomeno. Nel frattempo, mentre io ringrazio il dottor Nicola Piacente, procuratore della Repubblica del Tribunale di Como, per l'apporto tecnico che ci ha dato, il ministro Alfano, che arrivando al Consiglio straordinario che è in corso a Bruxelles del ministro degli Interni e della Giustizia, ha detto: il terrorismo è veloce e l'Europa spesso è lenta, e quindi occorre accelerare. Dobbiamo dare più velocità all'Unione Europea per poter fronteggiare minacce che hanno il ritmo di un crimine globale. L'Italia, come vedete, è un po' in prima fila nel dire che l'Europa è indietro. Io spero che su questo evitiamo di fare polemiche politiche guardando alle urne in Italia. Cerchiamo di essere più sul pezzo, per così dire. Allora, intanto continuate su Radio 24, appuntamento domani mattina alle 8:15 con me, Alessandro Milano, attenti a noi due.